Luciano, un pezzo della marca. Già, tra passatina oggi, però c'è stato un bombo. E io non mi dicevo andare, come faccio? E ci vai lunedì, Lu, ci vai, tanto da ieri. Finisciti quel lavoro, io sono in ferie. Sono in ferie, me ne posso occupare anche io di procurare quello tuo. Non ci sono problemi. No, aspetta, cazzo, già hai fatto un bel, hai fatto troppo, anzi. Già, già mi arrangio io, che non ti preoccupare. Tanto il furgone, al limite mi avvicino dietro la Sisa, lì mi hanno detto che lì rivedo i pali da... i pali slingati. Mi avvicino, che ho una cosa, ma lo prendo, sto qua. Ah, ma lo gioco... cioè, facciamo tutto, che sta stare lì, tagliare, muccare e fare. Tu domani mattina, accendi e ti rendi conto di quel palo. Dimmi. la morte di Ganese. E quelli dove li prendono l'uomo? No, comunque come costo non sono eccessivi, sono all'incirca allo stesso costo di quegli altri che facevamo prima. Tranquillamente, no? 10. Ah, 10? No, no, non è quello. Allora è un altro, no, no, 10, scusa, allora come pomeriggio sarebbe, quello che mi fu io. Se facciamo anche nominativo, diciamo, per dire uno non ha sentito la nuova. dire. E mi faccio una bella faccia chiusa. Perché tu credi di averla mandata a quel paese, Lui ha messo la buca sulla rua perché purtroppo è così. Ci sono anche i favoritismi. Andiamo, è uguale al... al pezzo di sotto dove resta l'antenna. Praticamente lì bisogna fare un bel lavoretto, bucare il palo, mettere due bulloni, gli altri erano lo stesso. E abbiamo bruciato un pezzo di palo che messi lì dentro, nuovo, perché quello che ho detto io non c'era arrugginito, un pezzo da mezzo metro anche basta. Bisogna bucare in parte, mettere due bulloni, si caro mi ha detto che non andava, adesso vediamo, se non mi occupo parecchio, forse prima. Yeah. tubo nuovo che entri sul 12 metro che tu hai fatto, ci compra un tubo da 3 metri e mezzo, da un pollice e un quarto, attenzione, da un pollice e un quarto, ci mette sul pollice e mezzo, ci mette l'antenna, perché la misura è quella, ci tira su, punto e basta, mi dice, 2 minuti di travaglio, però fatto bene, non che si morcetti, morcettiere, queste sono tronzate. Vabbè, si farà così, là. Si fa così, dai. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Allora al limite ho qualcuno che serve. Che a me non me ne posso nulla, a me non me ne posso. Da quel pollice in quel tubo la mano non ce la puoi mettere, perché la metti e non va bene. Gioca e poi praticamente devi fare il foro, devi staffarlo, devi ancorarlo, cazzo, vivo che ha comprato un tubo che ha fatto tutto il suo travaglio, perché ci vogliono le cravattine sue, con il tubo forato e da lì li saldati in modo che la attrezzatura entri dentro il tubo, perché altrimenti può fare marcia. Non so cosa voleva fare lui qui. Si compra un tubo da 3 metri e mezzo, uguale a quello che deve innestare nella manta, ma ci tira sull'antenna. 10 minuti di lavoro. Adesso facciamo così allora. Quello che lo discosta può sempre servire a qualcuno, capito? Non c'è problema. Però il lavoro fatto bene è quello che abbiamo stabilito noi. Io pensavo che lui tiresse il tubo giusto da innestare nella qualificazione che tu hai e da innestare nella manta, ma se da 2 pollici non va bene. Praticamente ha il diametro uguale alla manta forse. E ho provato con quel pezzo che mi ha dato tu, dove c'ero, diciamo, quel mosso là che mi ha dato tu, della manta qua 5. E ho provato ma non l'hai messo, è uguale. Allora non è da 2 pollici, allora non è un palo di qualificazione stradale, sarà un palo di altre qualificazioni stradali, non è quello dei cartelli stradali, perché quello dei cartelli stradali è da 2 pollici. Se è uguale a quello della Mantova, è da un pollice un quarto, ma la macchina me lo fai vedere a me questo tubo. A vedi, anche non si compri il giocatore tubo, hai visto? E dove macchina? Quando vedi te lo guardi, non c'è problema, già era occhi, non si rifugi. Capo, perché quello che c'è nella Mantova, della catena radiali, quello è da un pollice un quarto, ho capito? E non è stato sul pollice e mezzo. Quindi se è uguale all'issue è uguale, non innetta, no? Allora deve essere un pollice e mezzo per poter innettare. Cava, sono le mattine, quando scende lo freddo, ma io stavo pensando anche di tagliarne un pezzo di quello che c'è già su, no? Di quello che innetta nella mano, poi già il palo già lo stringe. No, non è così come dicono gli altri, già lo stringe, non tiene fermo il palo, c'è l'antenna, rimane ferma. E poi lo stesso non si muove, basta stringerli bene, lo blocca. Al limite se ne taglia un pezzo di quello, si innetta in questo che mi ha dato Luca, si salda, non si può fare i mocursi. Si salda, la salatrice chi ce l'ha? Ah, quello non c'è problema, già. Tu non ti preoccupare. Si fa, dove sto lavorando io c'è un fabbro. Andiamo a posto, me lo posso saldare. La tesora, si chiude zio, quindi no, quello non è problema. Ti tagli la parte più buona e e ci ha chiuso in questo. Vedeva una pulizia perché erano un po' rugginosi. Però non erano zingati, Non erano pali zingati. Infatti, ma ti prendo una di questa roba che è qua. E dico, ma dammi il vostro, su, a parte che è il tuo vicinoso. Qua, Claudio, vediamo, là, vediamo. Per fare quella volo lì, tagliare un pezzo di quel tubo che c'è adesso, e una bella pulizia con la moletta, saldato. Ma se no, altrimenti vado e me lo compro. No, no, non me la fotti nulla. Non so chi si vittivo che quasi mi bovano. Né povero né ricco. Vado venerdì, faccio il furgone e ora me lo compro. Tu, anche saldato, per esperienza, tu dico sempre per esperienza, anche saldato non va bene, perché la saldatura con la salsina e col tempo si può sempre staccare. Quante volte ci alziamo le marmitte e si aprono di nuovo, facciamo la saldatura su un cancello e si apre di nuovo. L'usura è l'usura, il palo dell'antenna deve essere nuovo, non deve avere né puri né saldatura. Sentiamo fra un pochino, chi c'era qua, Luca? Chi siamo a fare a volte? Mario. avanti, capito? Beh, quanto tempo vuoi a fare cavalca? Non manco 4, se così, fa una guida pure, va. Fai 2 mesi, raccontiamo delle svegliate, quando vedi il nase. Oh, 6 metri di marca, Anzi, me la porto pure una rima la porta, non è il problema. Solo che, sicuramente mi sarebbe male. Sta lì, dietro, no, va bene, non ci va bene. Adesso vediamo. Ce la faccio un giorno, ma è impossibile. Ma ok, mi trattengo fino alle 5, perché dopo il fabbro chiude. E non ti posso andare a aprire la corrente. Anche quello è vero. Chissà se non puoi ancora, scusa. Ti fai preventivo, ma ti viene male stasera? Ti viene male, Luca, sono con la bambina che è malata. Ma buona settimana, allora, ok. Poi lì devo andare a misurare. Che poi ti ha detto ci vuole la salatura al portale, ma ci vorranno anche le luci, no? Nelle scale. Non lo so questo se le metto. No, ma praticamente io gliel'ho messa, ma è a Luisa. La padella fuori perché non è lì, non è aperta. Lì è, ognuno ce l'ha contro il suo. E non le mettono luce, ma lasciano stare. Fate una cagata, sì. Vedi tu, tu ce l'hai messo bene, devi vedere tu e glielo dici. Qua ci vuole questo, questo e quest'altro. Io non me lo mi rinuda che non si voluta. Vabbè. Aspetta un attimo, tanto che mi sto mettendo a posto del letto, sto sconcio. Mi metti niente. Stanco, ma da che cosa fa quando è stanco?

Grazie da te, no. Ciao. Riccia. Ma chi sei? Salvatore. ristoriamo più tardi. Non c'è nessun altro Lucio per questo canale? È attivo. Gianni. Come sta QRM? Qua non c'è problemi tu. Non giri il coso, no. Il deviatore di antenna, un monticavo di giamma. Scusa, è quello che non usi, lo provi, se tu gli quello, mi scusa. Non rubi. Anzi, guarda, io vedo le... Cazzo, tu sono aspetta le tasse, scusa, già, sono vedi, aspetta, non c'è mercato intanto qua, mi tenevo di prima sull'occasione quando si alleggeva, adesso niente, perché ormai il mercato è usato, insieme a me è finito. Come primissima serie? Hai già stato purtroppo, cosa stai dicendo? Casomai è seconda serie di motore Trispark, perché la prima serie è quello che c'ho io. Preferisco qui.

poi la faccio più con calma. No, niente, adesso mi metto il naso, il capo, me ne tengo tutto la terra, chiudo, ma adesso c'è anche il centro freddo, se no poi non farlo al freddo. Io si vede, ci vuoi mettere qualche cosa, sì, qua. Fastidio. Ma è bello che quando sto in piedi già non mi dà nessun disturbo. disturbo, capito? E il disturbo va là quando è meccanico. Thank you. portato sulla Genaro e magari sta facendo questo coso importante, no? No, io qui in Italia, non per fare male forse. Ma lo gestisco. di Cercognazzo. Sabato sera c'è il karaoke. Limite, vedo un po' se ci l'ha lasciato aperto quel furgone, lui. Io ce l'ho un Bari, ti ho sentito il sottomondo laziale, questo qui non l'ho capito. Vabbè che sono piccolino, che ma non mi capite, non lo so, buonasera a tutti. Buonasera! Ciao Giovanni, buonasera, ben ascoltato. Te che tra, faccelo io, se lo vuoi pigliatelo. Okay, se prendete fuori. io mi ricordavo di averla, però mi ricordavo male, credevo che era quella che ci aveva l'attacco per il mandrillo un po' grosso, invece già va bene anche per il mio trapano. No, niente di particolare, tutto lì. Comunque, domani vedi, se la vuoi c'è, se non la vuoi la prendi da dollaro, la prendi da cosa, non c'è problema. Ok, dollaro e pausa, buon trabacco Gianni e ci sentiamo tutte le prossime. Vai Gianmarì. Ok, fai un bacio, ci sentiamo alle prossime. Luca, a te. Ciao, ciao. Buonanotte. È brutto, è stato male, ha parlato. Mi viene codificata la telefonata, ragazzi. Sì, ragazzi. E ragazzi, mi gusta questa telefonata. Ragazzi, mi gusta, dove stai parlando? E te la metto. Subito, 9.40 con tutti i positivi. E capo, lo stesso contraccambio il tuo rapporto, uguale identico. Sì, vanno bene, adesso vedrai quando ti piace anche la nuova, allora arrivi, a Marte arrivi. Oh, bravo. E Luca. E io la te, guarda a vedere, ho tutti i positivi, tutti i negativi. Yeah, molto vecchia come antenna, ma ci avrà 18 anni, diciamo, hai capito? Non vuoi mai fare questa antenna. Ciao Claudio, buonasera. Ciao, mai fare l'antenna. Tu, domani mattina già, se il tempo non permette, la piazzo là. Buonasera a tutti, riprende tu fai dico io che c'è qualcosa da fare, ciao. Ciao Giovanni, buonasera, siete tre da parte mia al QRA, ok, te la riascolta. Andar bene, no qua praticamente non ho potuto piazzare niente perché quella commissione poi stasera al limite me la costruisco qua a casa e poi domani mattina praticamente la piazzo là, vediamo un po'. Io quindi posso costruire tranquillamente. Va bene. Ok. Ciao a Giovanni che ha chiuso, buonasera. Inutile, quando sai mi saliva un po' caso, quindi o sei pronto o non sei pronto. Inutile che le cose si facciano, non si possono fare così, capito? Esce su un lavoro fatto male. Abbraccia, tira, molla, sali, scendi. Le cose bisogna farle una volta e basta. Capito? Ma comunque, domani mattina mi fai sapere. Riprendi, dice Luca, riprendi. Abbiamo un attimo, guarda, che mi sto sistemando il giubbo, come siamo stati giù all'altro. Adesso lunedì ho portato la cugina, ma faccio cambiare. Pagava. Avevo quella spezzona e qua, praticamente non stava facendo bene massa. E allora gliel'ho fatto a 2.13 adesso, io mi sapevo meglio. Mario. Ehi, no, se non mi rilanciano io non entro, perché sennò rischio di calpestare qualcuno. E poi Mario con quel microfono risolto arrivi con l'M300. E Antonello ha detto che forse ha trovato un coso nuovo, usato e stesso, e ha detto che lo dovrà saldare per provarlo, per vedere se va bene. Brava. Ce l'ho anche io quel pezzetto lì, l'ho trovato. Se ce l'hai allora, io se lo sento stasera pompoglio le dico di non saldarlo e casomai domani mattina passo lì e me lo dai, se me lo vuoi dare, se no poi mi dici quello che ti devo dare, non c'è problema. E una cambiala mi firmi da un paio di milioni. Anda bene, mio figlio ha detto solo. Solo perché sono pochi, io solo perché sono tanti. Gappa, vabbè. No, niente, se ce l'hai che è disponibile, che è buono, almeno quello lì tu mi dici che è buono e sono anch'io che è buono, perché lui ne ha trovato uno in un microfono vecchio che ci aveva lì in campagna, mi ha detto, e lo stava guardando e dice che sembra che funzioni, però lo deve saldare al microfono per provarlo giustamente. Beh, è positivo, va bene, ok. Va ho sistemato uno spezzone qua. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, prova la cipolla, K. 9,20. Ok, la radio buona, tranquilla. Ho visto che la modulazione è anche migliore. Praticamente mi stai arrivando bene anche tu adesso, 9,30 ti è arrivato qua. Va bene, Mario. non c'è problema, domani mattina. Guarda, come posso fare? Per il momento sono qua. Adesso vediamo. Ok. Ciao, buonasera. Sono contento per lui. E sposato c'ha anche due o tre figli, mi sa. piano già si rimette molto tutto. Ma prima ce n'erano un bel a squalo, tu lo ricordi a squalo? Sì. Ma ce n'erano un bel ragazzi in gamba, è vero. E poi sono tutti, sono entrati e spariti. Papillon, te ne ricordi di Papillon o di vecchio Frank? Sì, sì, io me li ricordo tutti quelli. Gappa, anche io me li ricordo tutti. Cosa ci vuoi fare? Purtroppo la vita non sappiamo mai cosa ci riserva. Infatti. Yeah.